la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 57 secondi, qui in diretta agli studi della Piovosa Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretto in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, il numero di telefono per intervenire oggi 800 24 00 24, e le opinioni al 349 238 6666. La puntata odierna in realtà è un aggiornamento di un tema che noi stiamo tenendo aperto da molto tempo, ed è il tema relativo al promesso svolta normativa che consenta una codificazione del diritto di accesso ai dati della pubblica amministrazione, quello che si chiama Freedom of Information Act negli Stati Uniti, un grande buco nella garanzia dei diritti nel nostro paese da sempre, con una opacità irriducibile da parte della pubblica amministrazione a consentire non solo, ma innanzitutto a chi fa informazione, cioè i giornalisti, l'accesso ai dati della pubblica amministrazione, ma a tutti i cittadini. Quindi una grande scelta di trasparenza. Abbiamo in diverse puntate seguito l'iter di questo provvedimento, l'iter di un provvedimento che non ci aveva soddisfatto. Abbiamo portato ai nostri microfoni chi ha passo passo rilevato che la promessa di stabilire il principio della libertà di accesso, tranne eccezione nel nostro ordinamento, fino al testo che abbiamo visto poi del decreto legislativo, risultava paradossalmente violata in pieno. Ricordo a tutti che nelle puntate, nei mesi che abbiamo fatto, vi abbiamo informato che in realtà, con sorpresa di noi tutti, c'era un testo in cui si consentiva alla pubblica amministrazione, in caso di richiesta, il silenzio, cioè la mancata risposta alla richiesta, che valeva a quel punto come unica vera risposta. Voi capite che si tratta di un'opacità garantita, non certo del principio della trasparenza. Dopodiché, a seguito di molti rilievi che erano venuti anche dal parere del Consiglio di Stato, c'era stata una revisione del testo, e l'ultima chance che restava, ma decisiva, era l'attesa delle linee guida che erano demandate all'ANAC, l'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, che tra l'altro proprio oggi compie gli anni quindi anche buon compleanno a Raffaele Cantone. Adesso dobbiamo rendervi conto dell'ulteriore passo che c'è stato, cioè sono uscite appunto le guide, le linee guida dell'autorità anticorruzione in relazione appunto del decreto legislativo, chiamiamolo per finta Freedom of Information Act all'italiana. E oggi vi informiamo di quello che c'è scritto e di quello che non c'è scritto, dal punto di vista di chi si è battuto e continuerà a battersi con la convinzione che si tratta innanzitutto di abbattere il diritto al silenzio totale che c'era pressoché integralmente fino a oggi, sapendo che è un processo lungo, perché anche negli altri paesi che hanno introdotto questo principio, nella realtà dei fatti c'è stato bisogno di un lavorio di anni per aprire le maglie, progressivamente estendendole il maggior numero di campi di attività della pubblica amministrazione. Io ricordo a tutti che viviamo in un paese in cui vige una specie di segreto di Stato, come se si trattasse di cose che riguardano la sicurezza nazionale, e cioè il diritto a non sapere cosa c'è scritto, per esempio, nelle concessioni autostradali. Cioè, veramente siamo una eccezione in tutti i paesi avanzati. Le concessioni autostradali, cioè il patto concessionario tra lo Stato e i concessionari privati nel nostro paese, è coperto da segreto assoluto. Quindi le formule e gli algoritmi con cui si calcola la remuneratività degli investimenti, che sono al centro della facoltà poi per i concessionari privati di ottenere aumenti di tariffa, sono gravati dal fatto che noi quei testi non abbiamo diritto di conoscerli. È possibile mai credere che debba rimanere riservata una cosa di questo genere? Faccio un esempio. Altro esempio. Stiamo scoprendo, oggi è la giornata dell'Assemblea del Monte Paschi, e oltre alla conferma di vincolare, per me incomprensibilmente, la doppia progettata manovra di liberazione di 27,5 miliardi di crediti deteriorati e poi l'aumento di capitale della banca al risultato del referendum, e io continuo a pensare, ma cosa cacchio c'entra il referendum? C'è stata anche una quantificazione delle liabilities che sarebbero complessivamente interessate in caso invece di risoluzione della banca secondo la direttiva europea, stiamo parlando di 13 miliardi. Vedremo che cosa avverrà, perché tutto questo sarà chiaro. La conversione volontaria dei subordinati parte dal 28, prima del referendum, poi l'aumento di capitale si verrà deciso o meno solo a seconda dell'esito del referendum. Non capisco perché, e la domanda però diventa in relazione a questo. E solo grazie alle indagini delle procure in corso su vicende di molte banche italiane, Veneto, Vicenza, le quattro banche risolte a novembre del 2015, che stiamo scoprendo per esempio l'esistenza di verbali e atti di indagine della vigilanza sulle diverse banche, che datano di molti anni precedenti alla loro risoluzione o ai loro guai. Ecco, non avevamo in nessun caso diritto ad accedere a quel bar. Ora ne veniamo a conoscenza come giornalisti solo perché diventano atti allegati ai fascicoli dei procedimenti, e quindi grazie agli avvocati. Perché bisogna credere, bisogna immaginare che gli atti di vigilanza sulle banche debbano essere coperti da segreto? Al contrario, è proprio la piena loro trasparenza che dovrebbe essere considerata un presidio della stabilità e dell'efficienza del sistema bancario, no? Ecco, mi limito a fare questi due esempi perché stiamo parlando di qualche cosa che ha a che vedere con una condizione essenziale della democrazia. L'ho fatta troppo lunga, a questo punto vi presento i due ospiti e chiediamo loro di articolare un giudizio rispetto alle linee guida dell'ANAC. Sono un passo avanti sostanziale rispetto al giudizio critico che davamo del decreto legislativo, e quanto sono sostanziali e quanto bisognerà invece ancora chiedere nel cambiamento. Ecco, i due ospiti sono per l'associazione Riparte il Futuro, che si è molto impegnata in questi anni, a cui ho tentato di dare una mano segnalando sempre nelle nostre trasmissioni che è un punto di riferimento per queste battaglie di trasparenza dell'informazione dell'amministrazione pubblica italiana. Abbiamo con noi Federico Angelè, grazie di essere con noi. Buonasera Giannino, grazie per appunto aver dato conto nel corso di questi mesi della battaglia che ci ha portati prima a chiedere il Freedom of Information Act, poi ad arrivare all'approvazione di un testo appunto parziale, monco, però ragionando per step era comunque un primo passo. È l'inizio di un lungo processo. Poi abbiamo con noi anche Vital Bazzolini, giurista. Vital Bazzolini, giurista, presta il suo servizio personale presso un'autorità del mercato, qui parla come giurista a titolo personale, ma che ha scritto molte volte anche di questo, perché si occupa di trasparenza e valutazione di impatto delle norme, in particolare sono alcune delle sue specializzazioni, e ha scritto un post che trovate ripreso sul blog, sul sito di Mario Seminario, quindi fastidio.net. Vital Bazzolini, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora Vitalba, cominciamo con te. Lette queste linee guida, che giudizio ne possiamo dare? Beh, possiamo dire che l'ANAC, che appunto le ha redatte e le ha messe in consultazione qualche giorno fa, fino al 28 novembre, questo lo dico anche a beneficio di quanti volessero e fossero interessati eventualmente a formulare le proprie osservazioni, ecco, l'ANAC si è prodotta in uno sforzo notevole di dettagliare e di sostanziare queste eccezioni che sin dal primo momento un po' tutti avevamo rilevato, anche le persone fondamentalmente a favore del testo avevano comunque rilevato essere un po' troppo generiche, e quindi aspettavamo la formulazione di queste linee guida per vedere a quale livello di dettaglio sarebbero arrivate e soprattutto se sarebbero state tali da consentire un diciamo di avere un po' più di fiducia nell'accoglimento delle domande d'accesso. Perché naturalmente più ampi sono ed estesi sono i settori in cui vige il principio dell'eccezione, più resta estesa l'opacità, e bisogna vedere come motivati. E su questo che possiamo dedurre? E su questo allora l'ANAC, come dicevo, si è prodotta in un grande sforzo cercando di dettagliare quanto più, di portare casi concreti, casi giurisprudenziali, richiami normativi che possano in qualche maniera sostenere l'istruttoria che dovrà essere fatta da parte degli uffici sulle domande di accesso. Ma in questa maniera, a mio parere, ha prodotto un risultato duplice e per molti versi contrastante. Vale a dire, da un lato il livello di dettaglio raggiunto dall'ANAC è notevole e quindi, volendo, un funzionario istruttore di una domanda di accesso ha una serie di casi e di riferimenti a cui appigliarsi, diciamo, di cui avvalersi nella propria istruttoria. Dall'altro lato, però, tutti questi appigli al funzionario che, al contrario, non volesse impegnarsi nella istruttoria della domanda, questi appigli potranno fornire, come dire, degli alibi per rifiutare le istanze d'accesso. Cioè, un documento così ampio e esteso, le linee guida sono all'incirca una trentina di pagine, con una serie di dettagli sulle eccezioni, è una miniera di appigli per negare la trasparenza. Quindi dipenderà dall'uso che ne sarà fatto. Se, come dicevi inizialmente, la cultura, l'atteggiamento della pubblica amministrazione è quella della, diciamo, è piuttosto volta all'opacità che alla disclosure, devo dire che non c'è da avere molta fiducia sull'uso che di questo dettaglio e minuziosità verrà fatto, per non dire poi di altre situazioni in cui il, come dire, l'ANAC addirittura pare legittimare il diniego. Faccio un esempio per tutti, devo dire mi ha abbastanza stupito. In una delle varie ipotesi che fa ANAC prevede ad esempio il fatto che venga richiesta una mole eccessiva di documenti alla pubblica amministrazione. Ecco, la eccessività della mole, devo dire che è un concetto molto relativo, nel senso che sappiamo che tutte le pubbliche amministrazioni operano comunque con risorse limitate, che anche lo stesso accesso nel decreto appunto Madia viene prevista la clausola di invarianza finanziaria, quindi c'è questa onere in più, questa istruttoria in più che deve essere fatta, parità di personale eccetera. Quindi il funzionario potrà legittimamente dire che anche tre documenti vanno a gravare troppo, sono per lui eccessivi, considerato la situazione in cui si trova ad operare, le altre scadenze e per così dire, ecco, insomma, potrà avere una serie di motivi in forza dei quali rifiutare. E un'altra notazione a me pare essenziale: hai giustamente menzionato il fatto che ci stiamo finalmente adeguando a paesi più evoluti con questo FOIA nazionale. Anche negli altri paesi sono formulate una serie di eccezioni che comunque possono portare al diniego, ovvero alla ostensione parziale dei documenti, ma negli altri paesi c'è un dettaglio. La pubblica amministrazione, l'amministrazione l'ente che deve fare l'istruttoria sull'istanza di accesso, dovrà operare un bilanciamento fra due o più interessi coinvolti, vale a dire dovrà valutare l'interesse all'accesso, pesa più che l'altro interesse coinvolto, ad esempio stabilità dei mercati finanziari, quella che tu menzionavi, sì, piuttosto che sicurezza pubblica o altro. Cioè, altrove l'interesse alla trasparenza viene messo su un piano paritetico rispetto all'altro interesse che si vuole tutelare e l'amministrazione di volta in volta valuta se è necessario tutelare l'una o è necessario tutelare l'altro e quindi decide quale dei due caso per caso debba prevalere. Invece nella impostazione del FOIA italiano è stato seguito un altro tipo appunto di struttura, vale a dire l'interesse alla trasparenza cede il passo se casomai va a scalfire un altro degli ambiti indicati dal legislatore, cioè se va ad impattare anche minimamente su uno degli altri, su uno appunto degli ambiti coperti dalle eccezioni, basta che ci sia un pregiudizio a uno di quegli ambiti, quindi che, come io ho scritto, che lo vada anche lievemente a scalfire, per dire la trasparenza no, viene negata. Cioè, io faccio, in questo caso parlo da giornalista economico finanziario, io penso che dovremmo organizzare un pool di giornalisti di indagine trasversale tra le testate e organizzarci con l'assistenza anche di Riparte il Futuro, è già un progetto di cui ho parlato con loro, per iniziare a mettere insieme le nostre richieste su alcune esempi di forte impatto simbolico, per rendere casi nazionali attraverso i quali poi costruire, attraverso l'impugnativa del no che verrà all'inizio, un percorso di maggior trasparenza dell'informazione economica nel nostro paese. E penso che questa sia una maniera per portarci un po' a un percorso che possa essere analogo a quello che accadde negli Stati Uniti con grandi scandali come Watergate e così via. Perché lo dico? Alla lettura delle linee guida dell'ANAC e alla luce di quello che adesso vi ha spiegato in maniera, credo, compresa e comprensibile per tutti, Vital Bazzolini, in parole povere, come giornalista noi continueremo a non avere accesso ai verbali di vigilanza della Banca Italia, a non poter ottenere la pubblicità dei patti concessionari con i privati gestori di servizi autostradali nel nostro paese, a non poter avere dal MEF il dettaglio di tutti i contratti inderivati a copertura di tipi sempre in vaniglia che altri, a copertura nella gestione del totale del debito pubblico italiano, che hanno prodotto decine di miliardi di euro di minusvalenze e quindi di pagamenti con chi li aveva contratti il tesoro negli anni alle nostre spalle, e che continuano a essere solo in termini generali descritti nei saldi potenziali e reali avvenuti, ma senza entrare nel dettaglio dei singoli contratti inderivati. Neanche il Parlamento ha diritto di saperlo, naturalmente non abbiamo diritto di saperlo noi. Faccio questi tre soli esempi, perché sono tre esempi tra i più straordinari. Purtroppo nella mia lettura le linee guida dell'ANAC mi inducono a dirvi che continueremo a navigare nel buio su ciascuno di questi tre esempi, e non capisco perché. Adesso andiamo a un minuto l'informazione stradale e sentiamo cosa ne pensa poi Federico Angelè. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, sono uscite le linee guida a carico dell'ANAC, redatte dall'ANAC per il decreto legislativo di attuazione del principio della trasparenza nell'accesso ai dati da parte dei cittadini e dei giornalisti e della pubblica amministrazione. Il testo del decreto legislativo vi spiegammo per tempo quando uscì perché non ci piaceva, e a noi dediti all'idea della trasparenza, noi giornalisti, per fare meglio il nostro mestiere, servirvi meglio, io non mi riconosco nelle critiche che prima ha fatto Vital Bazzolini, cioè a me non piace e non mi soddisfa neanche questo, le linee guida dell'ANAC. Sapevamo che non è che si ottiene la luce dalla tenebra assoluta schiacciando un interruttore, ma c'è ancora molto da fare. Che ne pensa Federico Angelè di Riparte il Futuro? Sì, io questa mattina ho partecipato anche all'audizione in ANAC. Devo dire che anche rafforzando quello che diceva prima Vital Bazzolini, siamo già rimasti un po' perplessi sulla modalità, nel senso che siamo stati convocati una settimana prima, abbiamo avuto quindi molto poco tempo per vedere delle linee guida che sono sì articolate, 30 pagine, però anche per questo quindi necessitano comunque di tutto il tempo necessario per produrre poi delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, tra cui appunto noi che da mesi ci stiamo battendo proprio per il diritto generalizzato. Il giudizio che mi sento di dare è di delusione. È di delusione perché prima di tutto questa riunione viene dopo una serie di incontri che si sono tenuti assieme ad ANAC nell'ambito dell'Open Government Partnership al Ministero della Funzione Pubblica. E in quella sede avevamo già esposto quello che per noi doveva essere la visione di ANAC, cioè quella che le linee guida fossero, come siamo convinti ancora adesso che debba essere, uno strumento nelle mani della pubblica amministrazione per evitare che la pubblica amministrazione interpreti quelle notevolissime eccezioni che appunto sono scaturite dal decreto come dei limiti alla possibilità di accedere a dati e documenti. e che ci siano poi da parte delle pubbliche amministrazioni dei meccanismi appunto in cui si trovano costantemente delle scappatoie per non fornire i materiali. Quindi avremmo in realtà, ci saremmo aspettati da ANAC che le linee guida servissero per bypassare questo problema appunto delle numerose materie su cui non è possibile fare eccezioni, scusate, su cui non è possibile fare domande di accesso, e che dettagliasse appunto invece quali documenti è possibile richiedere. Prima si parlava del segreto bancario, ma le faccio solo alcuni rilievi che abbiamo anche presentato questa mattina in sì. audizione. In primis le modalità attraverso le quali i cittadini o chiunque, i giornalisti, chiunque voglia fare richiesta di accesso potrà farlo. Mentre attualmente l'accesso civico previsto dal decreto 33 2013 prevede che sia sufficiente per fare una richiesta una semplice email, invece in questo caso occorrerà inviare occorrerà farsi identificare o attraverso lo SPID o inviando una mail PEC con comunque una copia del documento di identità. Tenga conto che molte persone ancora parlato. La procedurazione digitale fa parte di un passo da compiere. Se deve diventare nella fase iniziale un ostacolo per discriminare e elevare la maggior parte di quelli che possono chiedere, è ovvio che è un effetto discriminante. Comunque, siccome purtroppo il tempo avanza, io la interrompo solo qui per dire che sul sito di ripartefuturo.it trovate il corpo che si evolverà nel tempo delle osservazioni da fare e gli appuntamenti pubblici nei quali ci ritroviamo come giornalisti, come cittadini informati, come professionisti nei giudizi che vi abbiamo esposto. È un processo di lunga durata, io personalmente mi sono molto impegnato, credo che il futuro della mia professione sia battersi per i diritti di tutti, di sapere ciò che la pubblica amministrazione ritiene di avere il diritto di negare a voi tutti. Non stiamo parlando di sicurezza su armi nazionali, stiamo parlando di ciò che è il fondamento del nostro essere informati. Senza di questo la simmetria e anche gli eccessi dei social garantiscono solo caos e pancia invece che testa. Grazie a Federico Angelè a Riparte il Futuro e grazie a chi come Vital Bazzolini mette tempo extra professionale per dare un servizio a voi tutti. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 di mattina con me, Alessandro Milano, attenti noi due.